adesso chiamiamo la dottoressa Bassi, la quale spero, perché se no la discussione non la si fa, direi in maniera piuttosto sintetica, ci parlerà della recezione del cantismo nella storiografia italiana del secondo Ottocento. Felice Tocco. Se riesce a farlo in maniera sintetica, altrimenti... All'inizio non può coincidere con la fine, comunque cercherò. Quanto cerca di... quanto pensi, no, non facciamo la discussione. No, vado abbastanza veloce. E questa è un'aggiunta già programmata, perché avevamo guadagnato tempo, ma e ora bisogna... io non so il suo lavoro, perché altrimenti no. La discussione salta. No, vado abbastanza veloce. La mia breve indagine è stata svolta per mettere in luce alcuni aspetti della figura di Tocco, storiografo neocantiano, e per illustrare il suo problema fondamentale, cioè l'accesso al dato oggettivo su cui si porta l'indagine storiografica. E ho pensato di iniziare questa mia piccola ricognizione con una citazione tratta dai frammenti di Storia della filosofia di Gentile, il quale afferma: Kant chiede il concorso dell'esperienza come fonte diversa dal soggetto a costituire l'obiettività della conoscenza. Vuole il dato. La forma e la sintesi, e la priorità della sintesi, importa l'assolutezza della sintesi stessa, e quindi la sua irrelatività da ogni condizione estrinseca. Essa condiziona e non è condizionata. Il suo dato, in quanto dato, non ha nessun valore spirituale, non è oggetto dello spirito, è un termine extrasoggettivo. Per Gentile il dato empirico non ha alcun valore, meno che un'ombra. Un puro indeterminato, una mera finzione. Lo spirito è il legislatore dell'oggetto e l'oggetto si risolve quindi tutto nell'oggetto della conoscenza. E questa è anche la grande conquista dell'età moderna, cioè l'immedesimazione dell'essere e del pensiero, ovvero, come dice sempre Gentile, la fondazione, celebrata nei secoli, del regnum hominis, l'instaurazione dell'umanesimo vero. E questi sono, al fondo, i presupposti teorici della critica che Gentile avanza al metodo storiografico del suo maestro Tocco, il quale, a giudizio del Gentile sempre, fa riassorbire la critica del fatto, così che la storia, privata di ogni lume di critica, si riduce in fondo alla ristampa del testo dei filosofi. Il metodo filologico diviene l'unico valido per accertare criticamente il fatto, ma il Tocco, per evitare l'invasione della soggettività dello storico, si lascia completamente avvolgere, a giudizio del Gentile, nelle spire del pensiero oggetto di studio e rimane così, a sua volta, condizionato dalla soggettività del filosofo di cui si occupa. Però, tutt'altro che micrologia critica e priva di prospettiva storica, storico-filosofica, l'indagine di Tocco rimane sempre strettamente aderente al documento, al dato oggettivo, però vuole coglierne il senso e non solo registrarne l'effetto e collocarlo così all'interno di un sistema di fatti. Il punto di vista privilegiato per fare storia della filosofia è l'esperienza, l'esperienza propria del filosofo sul testo di un altro filosofo. La deriva ipersoggettivista che una tale impostazione comporta viene superata dalla rigida autonomia del dato, l'oggetto resistente e persistente su cui si porta l'indagine filosofica. E l'atto del filosofare diventa esercizio di critica ed esperienza del limite oggettivo che non può essere mai sussunto e risolto nell'attività del soggetto. Su questa concezione del rapporto fra soggetto e oggetto e sul metodo storiografico che ne è derivato si è abbattuto pesantemente il giudizio del Gentile, secondo il quale, e cito, il neocantismo più che una filosofia è propriamente uno speciale atteggiamento dello spirito filosofico, un atteggiamento di carattere negativo. I neocantiani, a differenza del loro maestro, non hanno alcun problema metafisico. Possono accusare il positivismo di ridurre la conoscenza a sensazione, la sensazione a movimento, ma non possono poi spiegare che cosa sia l'irriducibile che non riesce a sciogliersi e risolversi nell'esperienza empirica. Soffermandoci brevemente sulla riflessione storiografica di Tocco, vorremmo tentare di mettere in luce quali siano i suoi presupposti teorici e in quale modo li applichi nella sua ricerca. Certamente non ci pare di poter concordare con Gentile quando afferma che alla base della varietà di interessi di Tocco ci sia una mancanza di vigore speculativo e filosofico. Resta comunque il fatto che l'affermazione fatta da Gentile, cioè che il neocantismo sia una metodologia e una metodologia prossima al positivismo, trova una piena conferma negli scritti di Tocco. Nel 1869, negli studi sul positivismo, Tocco individua nel positivismo stesso due istanze, una negativa, la critica della metafisica, la seconda, positiva, la metodologia per studiare le scienze psicologiche. La critica della metafisica non è una novità, cito Tocco, Emanuele Kant ne aveva messo a nudo le vuotezze, i paralogismi e le antinomie. Ma è necessaria, non di meno, e continuo a citare Tocco, per l'esagerazione di alcune scuole filosofiche, che sono tuttavia in pieno vigore. Tocco pensa, da una parte, alla scuola hegeliana e dall'altra parte alla psicologia di Herbart. Accanto a questa esigenza di negazione nei confronti della metafisica dogmatica, che fa sì che il positivismo, per questa parte, sia pienamente d'accordo con la nuova filosofia, è avvertita la necessità dello studio della scientificità del conoscere. L'antica opposizione fra scienza e filosofia, fra lo studio delle mere apparenze delle cose, i fenomeni, e lo studio delle essenze, a giudizio di Tocco va negata. Il dato non va mai solo descritto, catalogato, a meno che, invece che di scienza, non ci si voglia occupare di propedeutica la scienza. E d'altra parte, l'essenza non è qualcosa che non ha a che fare con l'apparenza, ma è, cito Tocco, quell'essenza che vive nei fenomeni e che è determinata dall'insieme delle leggi che governano i fenomeni. Non si pone più l'antitesi fra scienze naturali induttive e scienze speculative deduttive. Si può parlare di scienza quando si giunge ad una sintesi fra induzione e deduzione, quando l'induzione serve per costruire una teoria non arbitraria, ma basata sui fatti, e la deduzione, dal suo canto, serve per giustificare e spiegare in modo unitario i fenomeni. La raggiunta scientificità nell'ambito delle scienze speculative comporta anche il venir meno dell'antitesi fra storia e filosofia. Il fatto storico va letto in connessione con gli altri fatti storici. Accanto al come, la storia spiega anche il perché e non si limita ad elencare eventi. Il mestiere dello storico si basa sul fatto, ma dal momento che si è accertato il fatto, il lavoro della storia l'è compiuto, si chiede Tocco, e risponde, no, voi dovete mostrarmi i fatti nella loro vita, nel loro movimento, dovete mostrarmi come si generano. Per poter cogliere l'intima connessione dei fatti, il loro scaturire l'uno dall'altro, sono necessari genio, fantasia e acuto intelletto. Accozzando insieme meri fatti non si scrive storia, e cito Tocco. Se non avete acuto intelletto e vivace fantasia insieme, voi non potrete scrivere una storia, perché saprete i fatti, ma non potrete presentarmeli nel loro nesso e nella loro vita. D'altro canto, la filosofia non può costruire una storia a priori, a prescindere dal confronto con il lavoro storico. La filosofia dello spirito, e questa è un'espressione di Felice Tocco, è qualcosa di meglio. Essa non prescinde dai fatti, ma li suppone noti ed accertati. E in questa dialettica tra fatto e sistema, Tocco riconosce il progresso della filosofia e la necessità del positivismo per l'esigenza di attribuire la massima importanza alla conoscenza empirica nella costruzione della realtà. Se la filosofia non vuole ritornare ad essere dogmatica e formale, deve assumersi il compito di riflettere sulla scientificità della conoscenza, sul valore dei concetti, sull'a priori e i limiti che governano l'attività gnosiologica umana. Naturalmente, sulla base di questa impostazione, Tocco si trova ad assegnare un ruolo fondamentale alla storia, storia dei fatti, storia della conoscenza e storia del progresso dell'uomo. La storia è l'unico osservatorio privilegiato che permette di comprendere le dinamiche di formazione e di sviluppo delle diverse forme di vita. Lo spirito è considerato come storia, dice Tocco, e però possiamo dire che come la filosofia della Rinascenza dettò un nuovo avviamento alle scienze naturali, così la filosofia posteriore a Kant ha dato un nuovo indirizzo alle scienze storiche. La filosofia, da scienza delle essenze, è divenuta la custode di una metodologia, quella scientifica, mentre le forme di conoscenza si danno sempre e solo attraverso un'esperienza storica. Però, in che modo si può costituire questa esperienza storica? A questo problema Tocco dedica un saggio nel 1877 che si intitola Pensieri sulla storia della filosofia. Il tema principale è quello della riproduzione e dell'accesso al fatto. Come è possibile salvare l'oggettività, l'autonomia del fatto e nello stesso tempo permettere l'esperienza gnoseologica? In altre parole, in che modo si configura il rapporto fra il soggetto e l'oggetto? Fondamentale, a giudizio di Tocco, è la possibilità di riprodurre i fatti idealmente, nel loro movimento, cito Tocco, ponendo bene mente che questa geniale ricostruzione non urti contro nessun documento o testimonianza. La contemporaneità non è più il luogo privilegiato in cui si offre l'esperienza storica. Infatti è possibile conoscere gli avvenimenti del passato in modo migliore di quello dei contemporanei. Addirittura è possibile conoscere il pensiero di un filosofo meglio di quanto egli stesso lo conoscesse. L'oggetto, nel momento in cui si è prodotto, non ha più nulla a che fare con il producente. L'effetto generato dalla causa acquista un'autonomia totale. Non è spiegabile e capibile in modo privilegiato a partire dal suo principio. L'attività del soggetto conoscente è molto più ricca del conosciuto, ma c'è il rischio che, per questo, la natura individuale del conoscente possa deformare o, peggio, cancellare i tratti peculiari del conosciuto. Diviene così necessario, dice Tocco, spogliarsi, per quanto è possibile, dal proprio modo di pensare e con un lento lavoro di separazione da quello che ci sembra più ovvio e più accertato, metterci nell'ambiente morale in cui era il filosofo, quando mosse a filosofare. Nella ricostruzione storica devono entrare il meno possibile i presupposti sistematici. L'unico criterio valido per la ricerca dello storico della filosofia deve essere quello interno al sistema che studia. Ogni sistema filosofico è una risposta alle esigenze umane e a rapporti con le scienze particolari della sua età. In questo legame che stringe in un unico nesso filosofia e scienze, cito Tocco, troveremo un altro criterio di valutazione valido e sicuro e terremo in maggior pregio quel sistema filosofico che sappia meglio elaborare il materiale positivo che le scienze contemporanee gli offrivano ed imprimere una spinta più vigorosa al loro progresso. Due sono dunque i criteri validi per la valutazione di un sistema filosofico. Uno è proprio del sistema stesso e consiste nella coerenza interna che lo mantiene in unità. Il secondo consiste nella relazione fra il sistema e la vita culturale e il progresso dello spirito. Viene così meno il criterio della contemporaneità per la possibilità della comprensione storica. Se l'intelligenza dell'umanità avanza secondo sue proprie leggi, queste sono più facilmente enucleabili a posteriori, quando la quantità dei dati a disposizione è maggiore. Se, d'altra parte, non esiste un progetto a priori di sviluppo, cioè se non è possibile determinare la morfologia del processo storico-filosofico, lo storico deve raccogliere una notevole messe di dati e interrogarli per scoprire il loro segreto. Voi dovete ricostruire, sostiene il Tocco, il fatto umano per capire il modo in cui è stato prodotto. E aggiunge, i fatti umani, è stato detto, non sono lì, non mi si presentano dinanzi, palpabili, freschi, vivi, osservabili, riconoscibili, che in quanto io li riproduco, io devo avere in mezzo ai sepolcri la potenza di Ezechiele. L'uomo, lo spirito, li ha generati, immaginati, favellati e pensati, e io, uomo, spirito, li rigenero, li rimmagino, li rifavello e li ripenso. L'esperienza storica è possibile in quanto c'è un sostrato comune fra il fatto da studiare e l'atto di riviverlo e di riprodurlo, ed è l'esperienza umana che sottostà all'uno e all'altro. I fatti storici e filosofici sono documenti di nostri antenati, prodotti per rispondere nel modo più adeguato ad un'esigenza, scoprire quale sia questa esigenza, in che modo le si sia fatto fronte, quali contraddizioni invece si sono lasciate aperte. È un modo per conoscere anche se stessi, la propria storia, perché lo spirito è quello che si fa. La storia della filosofia non viene sciolta dal tocco nelle scienze, come accade invece per i filosofi positivisti, che riducono la filosofia a classificazione di scienze. La filosofia, la storia della filosofia, non è solo scienza dell'oggetto e del mondo, ma rimane innanzitutto la scienza dell'uomo. Grazie. Grazie. 13 minuti.